tembrano al suon del rio che mormora con corde e notti armoniche. Io sol in volto il tristo cuore, anzi sepolto in tristo orrore. Al suon del pianto e tuoni in tristi per me, primavera per me non sarà mai. Primavera per me, primavera per me non sarà mai. Le nube d'acqua e grana